chi sbaglia a fare le strisce. Ciao. Ah, chi invece avvelena le bissie. Uno tira soltanto di destro, l'altro invece c'ha avuto un sinistro, e c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita è bella, è bella, basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. Per prodotti culinari. Beh, ah, bene. Tranquillo Giacomo. No, scusa. Quando vuoi. Sai com'è? Gente come me si può permettere questo, questo vizio di iniziare la trasmissione con la santa calma. Benvenuti a tutti. Questa è Radio Alma, 100 città. Sono le ore 20:04 di... Che giorno è oggi? Giovedì? 3? Cuba. 2? 3 giovedì 3 dicembre 2009, alba di una nuova era. Sai che giorno è domani? 4 di dicembre è Saint-Éloi, patrono dei metalmeccanici. Eccolo lì. Noi andiamo a mangiare a Pistat. Zio, ma tu lo sai tra tre giorni che giorno è? Sant'Ambrose, il patrono della capitale morale, Ciccio. Morale. Da noi ci sono gli obei, ci sono tutte queste belle cose. Sei qua tanto. Vino caldo, vabbè, mi berrò del vino caldo pure qua. Lo fanno anche qua, si chiama Glühwein, una roba del genere. Interessante. Io penso che da ignorante pensavo che il vin brûlé fosse una produzione nostrana, invece poi ho scoperto che non è solo una produzione nostrana, è una produzione anche austriaca, tedesca, belga, quindi non so chi sia il patrono di al questo brûlé francese. No, vin brûlé è milanese, Ciccio. No, no, francese. No, è milanese. No. Vabbè, abbiamo colonizzato. Dai. No, non c'è ancora. Insomma, non perdiamoci un cusquiglie. Comunque, benvenuti, bentornati. Oggi sono orfano del mio alter ego parmigiano, che è in quel di Belfast a prendersi la pioggia, mentre noi siamo qua al sole caldo di Bruxelles. Oggi con noi abbiamo un ospite... Un ospite che richiama, tra virgolette, il nostro DJ, in quanto porta lo stesso nome, ma regioni differenti. Lo scopriremo col tempo. Adesso introduciamolo. Benvenuto. Buonasera a tutti. Come ti chiami? Mi chiamo Giulio. Giulio, provieni da? Provengo da Modica. Oh, Modica. Calda Sicilia. Sole. Spiagge. Stamattina stavo guardando Sky News 24 e stavano facendo vedere le immagini. Prendiamo due città. Ah, Milano, inquadratura, nebbia, una temperatura che si aggira intorno allo 0 gradi. Palermo, inquadratura sul mare, cielo terso, 12 gradi. Vabbè, qualità della vita, diciamo che voi vincete a mani basse. Sì. Veramente a mani basse. Infatti. C'è poco da dire. E come ti trovi qua? Guardalo com'è bello in salute, si vede già. Sì, beh, è grasso, eh? Mangia. mangia ragazzo. No, come ti trovi qua nel profondo nord? Bene, alla fine sto facendo uno stage che è Bruxelles, vabbè, l'impatto è, all'inizio è tragico, però dopo, avendo studiato a Milano, ero abituato. Diciamo, quindi, un piccolo passo verso sono salito di un gradino in più, quindi, però sì, insomma, il grigiore di Bruxelles è tosto. E ti è andata bene quest'anno, perché è stato un autunno particolarmente leggero. Vedo, infatti, tutto sommato. Molto, è andato molto a rilento e la cosa non mi dà da ben sperare, mi preoccupa particolarmente a guardare il mese di gennaio, quando arriverà un freddo cane, soprattutto quando in primavera, la primavera non arriverà perché essendo tutto in ritardo si sposterà probabilmente. Se l'è mangiata l'effetto serra. Ecco, esatto, quindi forza Copenaghen, forza amici del clima, vedete di convincere i cinesi e gli americani a impegnarsi un attimino di più su tutte queste questioni. Quindi dicevi tu, Modica, appena giunto a Bruxelles, mi sembra che comunque ti stai già ambientando velocemente. Sì, sì, sì, tutto, tutto a posto, siamo, siamo diciamo accuditi dalla Commissione Europea. Lavori in Commissione? Sì, sì. Tanto, sì. Per cambiare. Tanto per cambiare, uno stagista della Commissione, eh? Uno stagista della Commissione. Non l'avrei mai detto, Giulio, veramente, non l'avrei veramente mai detto. Quando sento la parola stagista ormai trizzo le orecchie. Sì, stagista o schiavo, poi è la stessa cosa. Ah, schiavo, uno che esce alle 5:30 è tutto fuorché uno schiavo, te lo dice uno che è uscito alle 7:30, quindi ti assicuro che c'è di peggio. C'è di peggio, vabbè, quello sì. C'è di peggio, c'è di peggio, c'è di peggio, anzi, un ottimo lavoro. Sì, sì, vabbè, lavoro, stage, stage, stage. Come vanno? Scusa, Giulio, se vuoi puoi stare anche dietro la porta. Sì, effettivamente se parli più vicino al microfono non si offende nessuno, soprattutto il nostro DJ, okay, che è lì che smanetta con l'indicatore del volume. No, ti dicevo, cosa ti stavo dicendo? Ah già, com'è il movimento interno? Questa nuova commissione che si va formando, avete qualche cambiamento in corso di tipo pesante nella tua DG, tu in che DG sei? Io sono la Sanco, che è sicurezza alimentare Sanco. Del consumatore. Sì. Sì, si è beccato i prodotti farmaceutici. Complimenti. Beh, alla Sanco. Grazie, grazie. Siamo grazie. Molto contenti, noi che odiamo l'industria farmaceutica. Poi, ma non solo, abbiamo anche i prodotti alimentari. Quindi, sì, insomma, sì, no, sì, è stato sì, ampliato. Sì. Chi è il nuovo commissario candidato? Adesso è un maltese, adesso un sì. Nome impronunciabile. Il prossimo? No, è il nuovo eletto. Ah, no, è nuovo, ah, sì, John sì. Dalli. Esatto, Dalli, sì, sì, sì, sì, sì, mentre quello precedente era Basilio. Basilio, esatto. Basilio, sì, sì, sì, sì, giusto, sì, giusto, infatti, giusto. Quindi no, beh, cambiamenti drastici non ce ne sono, tutto sommato. C'è gente che si agita, c'è gente che rischia di perdere posti no. Di lavoro. Tu, Giulio, vuoi un posto di lavoro alla Senco? No, mi agitavo perché ho sentito sicurezza alimentare, quindi avevo una questione per l'ospite, visto che è un esperto. Esperto, ho una mozzarella scaduta da un giorno nel frigo. Cosa fa? Devi metterti le cuffie. Questa grande invenzione. Allora c'era un motivo. Era divertente comunque vedere lui che parlava e tu che ridevi. Ti mimava? Sì. Allora chiedevo. Mimati la mozzarella. Per una mozzarella di bufala scaduta da un giorno nel frigo. Tu, a livello di esperto alimentare, di sicurezza alimentare, cosa mi diresti di fare? Gettarla clamorosamente? No, mangiarla. Rischiando oggi, così sì. Di passare una mattinata? Io aggiungerei oggi. Oggi stesso? Già. Io direi di mangiarla. Buttare via una mozzarella di bufala in quel di Bruxelles, allora, mi sembra un crimine contro l'umanità. Allora io mi fido del parere dell'esperto. Sì, esatto. Sì, sì. Che sarà maledetto, scusate. Se te lo dice lui, guarda, possiamo mangiarci. Anch'io mangio cose scadute, ho mangiato il petto di pollo scaduto da 3 giorni. Qua il petto di pollo, con quello che costa, vorrei anche vedere che appunto, lo butti via. Non l'avrei mai buttato. Mai visto il pollo che costa più del bovino? Solo il petto. La cosa non so che sono pieni di bovini questi. Infatti. Vali a capire. Comunque, parliamo un po' della tua cittadina ridente. Modica è famosa in tutto il mondo per il cioccolato, ovviamente, perché è un grandissimo vanto della vostra terra, quello di avere un cioccolato un po' particolare, no? Vero? Sì, sì, sì. Sì. Spiegami un po'. Allora, sì, il cioccolato di Modica, anzi sono contento che tu lo conosca perché non tutti sono preparati su questo argomento. Non tutti sono di buon gustare. Non tutti sono di buon gustare. Il cioccolato di Modica praticamente è un'antica ricetta importata dai Maya. Addirittura? Perché appunto la dominazione spagnola che è stata in Sicilia era certo. Molto forte, appunto durante i loro viaggi in America Latina hanno portato questi grani di cacao che da cui appunto poi si è creata questa ricetta del cioccolato di Modica, che rispetto al cioccolato che conosciamo lo zucchero non è sciolto. Mm-hmm. Quindi si vede, non so se tu l'hai mai mangiato. Sì, sì, sì, sì. Ah, okay. Si vede bianco. Esatto, si vede appunto questi granuli di zucchero non sciolti, il cioccolato è molto duro ed ha un sapore un po' particolare, però insomma può piacere. Ormai ci sono tantissimi gusti, al peperoncino, alla vaniglia, al caffè, agli agrumi, e quindi insomma sono nate poi da qui un sacco di varianti del cioccolato di Modica e ovviamente è diventato un business vero e proprio. Eh beh. Sì, è un marchio, un marchio protetto. Sì, sì, sì, sì, sì, un marchio protetto, quindi anche nella grigia Milano, quando studiavo lì, ogni tanto riuscivo a trovare il cioccolato di moda. A prezzi esorbitanti. A prezzi esorbitanti, però riuscivo a trovarlo. Sì, quindi il cioccolato di Modica, insomma, ne andiamo abbastanza fieri, anche se non è l'unica cosa per cui Modica è famosa. E un confronto col cioccolato belga? Loro che sono master cioccolatai, si vantano di essere i migliori del mondo. Beh, e sono molto bravi. Sono molto bravi. Beh, è diverso. È diverso. In realtà a me piacciono tutti e due. Quindi comunque non riuscirei a fare un... Però giustamente se il mio parere... Il tuo cuore comunque va al sud. Giustamente. Quindi, insomma, se dovessi sceglierei il cioccolato di Modica. Si deve dare atto. Mi dicevi che quindi Modica è famosa anche per altre cose, perlomeno rinomata per altre cose, tipo... Allora, Modica adesso è patrimonio dell'UNESCO per il barocco dal 2001, o dal 2000, non mi ricordo, insieme ad altre cittadine lì in provincia di Ragusa, quindi va ad arricchire la Val di Noto, appunto per il barocco. E quindi, molti palazzi. Sì, moltissimi, quindi è molto... È molto caratteristica come città, perché comunque si aggrappa sui colli, quindi insomma è stata definita dal nostro amico Vittorio Sgarbi un piccolo presepe vivente, diciamo, perché le casette sono piccoline. Una hai detto anche vaffanculo stronzo, visto che ma no, non gliel'ho detto, però l'ho no, no, lui a voi, perché sai che lui se non mette almeno un paio di parolacce non è ah beh no, quella volta è stato un sindaco di un paese vicino a voi, no, nella costa occidentale, il sindaco di Salemi. Sì, lui è il sindaco di Salemi, sì, tipico siciliano lui, tra l'altro. Sì, sì, lui è proprio doc 100%. Le belle cose della vita, vale. esatto. E poi è anche il set cinematografico della famosissima serie Il commissario Montalbano. Eccolo lì, è lì che ti ci volevo portare. Infatti, ci sono arrivato. Esatto. Perché comunque la gente non lo sa, perché ha ammirato quei panorami, magari guardandoli, cos'era, su Rai 2, non mi ricordo. Rai 1, sì. Ammirando la costa e tutto quanto, però non sapeva precisamente dove fosse girato il tutto, e adesso i nostri ascoltatori di Bruxelles sanno che il tutto è a Modica. In realtà non solo a Modica, però anche a Scicli, Donna Lucata, Ragusa Ibla, che sono appunto altre città lì vicino. Però appunto fanno le varie riprese, poi ricreano la famosa Vigata. Quindi insomma. E la casa di Montalbano, insomma, è nella spiaggia dove vado io ogni estate praticamente. Quindi insomma, la conosco bene. Non ti hanno mai ripreso durante una puntata? Vero, non hai mai fatto la comparsa? No, la comparsa no, perché non mi trovo mai in Sicilia durante le riprese. Però una volta mi è capitato di vedere il set, sì. Quindi. Zingaretti che camminava per le strade di Modica, e poi anche lì si è aperto un altro business, insomma ogni bar è intitolato Commissario Montalbano, la casa del Commissario Montalbano adesso è un bed and breakfast. Avevo paura dicessi un museo. No, però ha i prezzi più alti della provincia, perché insomma i turisti vanno a vedere la casa del Commissario Montalbano. Sì, e sono disposti a sbancare. A che punto siamo in Italia? Veramente, no, infatti mi stavo deprimendo da solo. Cioè, niente contro la serie, cioè, che non esprimo un giudizio, può piacere, può non piacere, non è una serie di quelle che danno fastidio, anzi è una serie neutra, carina, tranquilla, però da qui a dire che addirittura è un luogo di culto da andare a visitare, mi sembra una cosa, cioè Modica, andiamo a visitare Modica per altri motivi, sicuramente non perché è la serie di un telefilm, una telenovela, so come cavolo vogliamo chiamare. Andiamo a mangiarci il cioccolato, andiamo a farci dei bagni spiaggia. Sì, infatti. E niente, quindi insomma, poi appunto per quanto riguarda sempre Montalbano, la provincia di Ragusa organizza sempre per i turisti il tour di Montalbano, quindi ti porta con un autobus a vedere, non so, il commissariato, che è il comune di Scicli. Nella serie, poi insomma la strada principale, il corso di Ragusa Ibla, e nella sigla si vede dall'alto Modica, quel ponte alto che si vede, appunto il ponte di Modica, che tra l'altro è il secondo più alto d'Europa, quindi vantiamo che questo il secondo quasi ponte più alto d'Europa. Ebbene sì. Finché non vi costruiscono il ponte. Finché non ci costruiscono il ponte, il signor ponte. Signor ponte. che stiamo aspettando. Sì, immagino. Con ansia. Sarete contenti di tornare uniti ai vostri fratelli calabresi e in generale all'Unione Europea. E quindi, insomma, unirci all'Italia, come dice il nostro amico Berlusconi, per far sentire i siciliani italiani finalmente. Esatto. Ci voleva il ponte. Esatto, infatti, perché siete discriminati. Siamo discriminati. Infatti, parlate un'altra lingua, avete quasi anche un altro colore della pelle con il suo riconoscimento. Infatti. Però vedremo. Beh, benvenuti in Europa, allora mi verrebbe da dire, visto che il ponte lo aprono il 23 di dicembre. Tra l'altro, roba tipicamente italiana, Giulio. Non so se hai sentito che il cantiere del ponte, secondo calcoli, apre il 23 di dicembre, giusto per andare in vacanza. Cioè, io non lo so. Vabbè, questi sono dei geni, io li stimo tantissimo. Non fanno tempo ad aprire il cantiere che vado in vacanza il giorno dopo. Io veramente li adoro il mio paese. Quando tornano, sai che il cantiere si è spostato di 10 metri perché lì il territorio è instabile come. Ma questo l'ingegner Cane l'aveva raccontata questa storia. Non lo fanno. Evidentemente non guardavano troppo mai dire gol ai tempi, neanche certi personaggi influenti del vostro caro capoluogo. Che tra l'altro ho visto siete in un momento di crisi, perché la Sicilia vive un momento di crisi politica importante. Dopo aver ricacciato quella specie di pseudo mafioso Mangiacannoli, scusami, di Cuffalo, adesso già avete un uomo dal cognome sinistro per un siciliano. Esattamente, Raffaele Lombardo, che non riesce neanche più a tenere insieme una maggioranza. E la cosa mi preoccupa, perché se da voi una maggioranza non tiene, c'è un motivo sotto, ci deve essere. Perché tra l'altro lì dentro sono tutti uguali, destra e sinistra, sì, non è che cambi un granché, no? Sì, Raffaele Lombardo, insomma, è un altro, insomma, andiamo tutti fieri del nostro presidente della regione. Insomma, tutti fieri voi che siete qui fuori. Sì, ma anche quelli che sono lì, diciamo, un po' come il mistero in Italia, insomma, nessuno vota Berlusconi, ma... Ma tutti, sempre... ma alla fine è lì come un bel malloppone di voti, infatti. Sì, infatti, quindi noi siamo riusciti anche a votare nelle penultime votazioni per la presidenza alla regione tra Cuffaro e Rita Borsellino, siamo riusciti a votare Cuffaro. Esatto, c'è anche questo neo però. Da pensare, da riflettere. Ma non me la sento di insultare i siciliani, perché no. I siciliani non si meritano di essere insultati, vanno insultati quei siciliani che lo votano, perché va fatta la differenza. Su 5 milioni di siciliani, insomma, posso garantirvi che c'è tanta gente in gamba, assolutamente sì, soprattutto lontani dalla Sicilia, e questa è la cosa che mi preoccupa sempre di più, come sono sempre più gli italiani in gamba lontani dall'Italia. Esatto, sì. Sta diventando una costante, una specie di fuga non solo di cervelli, ma proprio di valori intellettuali e umani che se ne vanno. Tra l'altro domani fanno a Bruxelles la manifestazione contro il nostro carissimo Presidente del Consiglio, che non ho mica capito perché la facciano di venerdì a Bruxelles e a Charleroi di sabato, sì. Però vabbè, sarà, se non sbaglio, da Square de Meus a mezzogiorno. E poi confluirà verso un po' in Schumann, esatto, a Luna. Sì, infatti. Sono curioso di vedere quanta gente ci parteciperà. Anch'io. Faccio gli auguri agli organizzatori, anche agli organizzatori di Roma, soprattutto gli organizzatori di Roma, che hanno previsto 350.000 persone. Gli auguro di ottenere questi risultati. Speriamo, dai. Vedremo. È facile iscriversi a una manifestazione su internet, meno facile poi parteciparci. Sì. Quindi con questa manifestazione che abbiamo dopo aver tediato sul lato politico i nostri radioascoltatori, vi lasciamo rilassare un attimo con una pausa musicale da parte del Giulio numero 1 o del Giulio quello emiliano, del Giulio quello nordico, chiamatelo come volete, romagnolo. Abbiamo un DJ alcolizzato oggi. DJ e presentatore sono provati dalla settimana di lavoro, vi chiedo umilmente perdono, voi che siete in ascolto e che tentate di rilassarvi. Eravamo persi in chiacchiere, esattamente, con il nostro caro amico di Monica, ci stavamo dileggiando in nulla, fondamentalmente. Nulla che possa essere particolarmente utile alla conversazione, ma comunque. Bentornati, questa è Centocittà. Qui il vostro Jack, Giulio alla console e Giulio davanti a me di Modica, che ci stava raccontando della bellezza della sua terra. Esatto. O dei problemi della sua terra, secondo i punti di vista. E mi ho dimenticato un'altra cosa importante: di parlare vicino al microfono. Quella è la prima cosa. Parlare vicino al microfono. Hai le braccia corte? Mi sembrava. E un'altra cosa importantissima per Modica, insomma, è che abbiamo... La figa? Tutta la Sicilia. Abbiamo dato... Approfondiamo questo tema. Sì, poi dopo lo approfondiremo, esatto. Abbiamo dato i natali a Salvatore Quasimodo. Ah! Ragazzi. Questa sì che è una bella cosa. È premio Nobel, insomma. Poesia, quindi... Non capita tutti i giorni di dare i natali a un premio Nobel. No, quindi si può visitare anche la casa di Salvatore Quasimodo. Ecco, quello sì che è un luogo da visitare. Assolutamente. Tutto rispetto per Zingaretti. Beh, certo, Salvatore Quasimodo, quindi si può fare il tour per i vicoli di Salvatore Quasimodo, perché, insomma, una delle poesie più famose di Salvatore Quasimodo, appunto, definiva la Sicilia la terra impareggiabile. Quando lui si trasferì a Milano, scriveva appunto nostalgicamente sulla sua città, su Modica, sui vicoli, perché abbiamo il centro storico è fatto con queste stradine piccole, quindi è molto caratteristico, e lui appunto parlava della sua terra impareggiabile. Giacomo, propongo, se sei d'accordo, che l'ospite ci reciti in diretta la poesia. Stavo per chiedere. O una citazione. Esatto, stavo per chiedere, perché finché mi fa il figo e mi dice che è nato lì e poi non che, so. Ma, che, fa lì, che è impareggiabile di qualità, bene, immagino che l'avranno studiata a memoria. Perché... Adesso lo mettiamo nella situazione del bambino alla scuola elementare, che ha imparato la poesia a memoria. Esatto, noi sappiamo bene tutte le poesie, tutti i versi di Promessi Sposi nei milanesi, invece adesso il ragazzo qua ci citerà qualcosa del sommo Quasimodo. Del sommo Salvatore. Beh, siete cattivi comunque con questa domanda, però in realtà ci sei cacciato da sotto. L'unica citazione che mi dico, vabbè, la terra impareggiabile, ve l'ho detto, insomma, è anche grazie mille, quello ce la facevo anch'io a farlo. Comunque, non ho vinto, no, la poesia più famosa di Salvatore Quasimodo, appunto la citazione. Poi Salvatore Quasimodo fa parte appunto del filone degli ermetici, no? Quindi insomma abbastanza, che sarebbe? Appunto, le poesie molto succinte, molto sintetiche, quindi si andava direttamente al nucleo essenziale della poesia. Quindi la più famosa è appunto Ed è subito sera. Ed è subito sera. Ha citato una poesia. Sempre una poesia. Facile sì. Le poesie in Sicilia. Come d'autunno sugli alberi le foglie. Ed è subito sera. Però ma lui viveva in Sicilia o viveva in Norvegia? Subito sera, mi viene in mente un posto come Oslo. Fai così e in 30 secondi è di nuovo buio. Vabbè, fa buio anche in Sicilia alla fine. Sì, certo, tardi, fortunatamente. Tardi, però l'avrà scritta alle 10 di sera, insomma. Era ubriaco. Potrebbe anche essere. grande. Oh, finalmente si parla di un po' di cultura. È raro trovare qualcuno che ci citi una poesia. Mi sa che sei anche il primo che giunge da un posto dove è nato un premio Nobel. Ah, bene, dai. Perché mi è anche il primo uomo, si fa il caso. Forse il primo uomo. Vabbè, sulla terra, a parte il mitico Skork. Skork lo conoscerai anche tu, un essere umano bellissimo che è venuto qua, che salutiamo calorosamente se ci sta ascoltando. Un tuo collega della commissione proveniente dallo stesso vivaio di stage, che ci ha procurato la stessa PR che ha procurato te, che è una tipa che frequenta locali e che sul nostro pagamento va a raccattare ingenui stagisti per essere sottoposti a questa. E questo Skorka si presentò con dei temi, no? Te lo ricordi? Ci citò addirittura il discorso di Berlusconi quando è sceso in campo nel 94, per quanto era una persona acculturata. Però pensa a te. E quindi, vabbè, no, ottimo, questa roba qua di Quasimodo mi era completamente passata di mente. Sì. Non mi ricordavo veramente. È il penultimo premio Nobel italiano, se non sbaglio. Sì, bravo, sì. Prima del nostro Dario Fo. Esatto. Quindi. E poi anche Modi, che è famosa, insomma, per chi insomma è dell'ambiente. Quale per ambiente? Tommaso, l'ambiente appunto della fisica, della chimica, per Tommaso Campailla. Tommaso? Campailla, no, io non sono esperto di chimica e fisica, quindi tu, Giulio? Ma io non ne so niente. Campailla. Chi l'è che schi? Cosa ha inventato? Tommaso Campailla. Fisica? No, ha inventato le botti, si chiamano appunto le botti di Campailla, era un modo botti di vino, era ai tempi un modo per curare la sifilide. Praticamente sono queste botti, uno entrava dentro questa botte e poi un serpente, un pollo, esatto. E poi ti buttano giù da un mondo. No, in realtà poi grazie a dei vapori, a dei fumi, non so, ora il processo in realtà non lo so benissimo, però comunque per i tempi insomma si pensava fosse uno dei metodi migliori per curare appunto la sifilide. Quindi abbiamo anche questa lapide tra le stradine di Modica, si può vedere anche la casa di Tommaso Campailla, che stranamente è di fronte a quella di Quasimodo. Ecco, pensa un po', c'è un sacco di roba, no, solo in quella via, in realtà si risolve tutto lì. Poi c'è la fabbrica di cioccolato dove c'è Willy Wonka ed è finita Modica, il mare, certo, la spiaggia con il commissario Montalbano, che prende il sole, sì. Quindi c'è una città di quanti abitanti? 60.000. Mica pochi, effettivamente. Date una volta ogni due secoli natali a personaggi. Esattamente, sì. Ogni tanto ci si impegna. Esatto. Ragusa è una città che anche lei ha in passato molto remoto, ha dato natali a moltissimi personaggi storici importanti nell'ambito della romanità durante l'impero romano. Anzi, era addirittura una colonia greca, se non sbaglio, Ragusa. La Magna Grecia. Sì, in generale sì, sono pestati con sì. Era una delle città. Ci sono dei resti. Era una delle città che già c'era. Sì. Lì vicino c'è Santa Croce Camerina, che appunto conserva, sono delle rovine greche, quindi testimoniano. Siete una fucina di intelligenza, evidentemente, quindi devo spiegarmi per quale motivo allora tutto il resto è noia. Visto che voi producete queste menti così gloriose, ma a parte menti gloriose, voi produrrete anche dell'ottimo cibo, non solamente del cioccolato. E visto che ci siamo, e visto che tu sei all'estero soprattutto, ti voglio porre una domanda, ossia, per rientrare sempre nei ranghi della tua cultura, della tua storia, come la sfrutti in maniera concreta? Ossia, tu, siculo italico in esilio forzato in quel di Bruxelles, quando ti ritrovi davanti una bella bionda proveniente da terre nordiche che dice: ah, tu italiano, ah, bene, mangiare, buono, fare di qua, fare di là, come dice, come sta questa, me la calappio, come me la calappi senza alcolizzarmela? Qual è il piatto che mi potresti fare? Puoi far partire la sigla, Giulio. Bene, allora potrei elencare tantissimi piatti. Sceglimene uno. Sei un cuoco prima di tutto? No, te la cavi? Insomma. Siciliano sa cucinare. Più no che sì. Però vabbè, molto male, lo adesso so. vediamo, preparaci questo piatto, perché tu devi sapere che i nostri radioascoltatori si sono fatti il palato alcune volte bene, alcune volte molto male, a seconda degli ospiti che abbiamo davanti. Quindi adesso tu dovrai descrivere passo per passo una ricetta che l'uomo di turno possa utilizzare quando, o la donna di turno possa utilizzare quando gli si para davanti uno straniero, barra una straniera. Ok, dai, va bene. Allora io proporrei le iscacci. in siciliano, in modicano in realtà. Sì, traduci in italiano? Beh, in italiano potremmo tradurre come le scacce. Grazie dell'aiuto, adesso mi sento meglio. Vabbè, se vuoi, anche da casa stanno steppando delle bottiglie di champagne. Se vuoi, le focacce. Le focacce, ecco, già qua. Però vabbè, in realtà poi non ha niente a che vedere con la focaccia del nord Italia. La focaccia c'è anche a Bari, eh. Beh, attento appunto, che qualcuno in Puglia potrebbe offendere, e anche con quella pugliese che sarà sicuramente buonissima, però non è niente. Beh, le scacce sono un piatto tipico della provincia di Ragusa, si può trovare soltanto in provincia di Ragusa. E di solito si mangiano a Natale, quindi quando scenderò tra due settimane potrò rigustare queste scacce. Sono praticamente una specie di pasta, lo stesso impasto non della pizza, però della, come potrei dire, neanche della focaccia, insomma, arrotolata più e più volte ed è, diciamo, imbottita con tantissimi, può essere col pomodoro e cipolla, pomodoro e ricotta, imbottita? Patate. Sì, insomma, cioè una specie di rollo? Sì, una specie, però se non si vede, non sa, così a spiegare è abbastanza difficile, però sì, una specie di rollo e a due tre strati. Beh, portaceli su quando torni. Beh, assolutamente sì. Facci di assaggiare, sì, io sono un grande amante della focaccia. Della focaccia, beh, ma questo non l'avrei mai assaggiato. No, esatto, io da quelle parti non ci sono mai stato. Quindi okay. se mi piace la focaccia, sicuramente per questa focaccia andrei pazzo. Sì, è molto molto buona, e quindi insomma ci sono varie varianti di focaccia, quindi pomodoro, e tu sei capace di farla? No. E allora come fai a conquistarmi questa fanciulla che ti porta? Beh, però potrei provarci. Ecco. Beh, sì, in realtà non è che è proprio difficile, però insomma è abbastanza impegnativa come ricetta. Però se no potrei offrirle un dolce tipico modicano che si chiamano impanatigli. Impanatigli? Sì. Esatto, bravo. Roba impanata? No, è un dolce. ed è un famoso. Lo fate apposta voi? Sì, siamo passati, così capiamo subito se sei siciliano. Non siete mica pieni. No, così sappiamo se spennate a aumentare il prezzo. Bravi. Bello questo da sapere. Poi vi lamentate i milanesi. Bravi. Comunque impanatigli è fatto un dolce, un biscotto con cioccolato e carne di vitello insieme. Cosa? Lo so, tutti rimangono esterefatti. Hai sentito cosa ha detto questo? Cioccolato e carne di vitello? Vi giuro che insomma la carne non si sente per niente. Perché è un impasto talmente particolare, talmente lavorato, elaborato. Infatti il trucco, tutti i miei amici nordici quando vengono giù e faccio assaggiare gli impanatigli, ovviamente svelo il segreto subito dopo. E quindi insomma è un dolce. Ma dimmi come si fa questo? Questo mi interessa. Beh, insomma, chiedi. Segreto. Questo è un segreto delle nonne modicane. Le nonne modicane che in realtà svelano solo dopo tanti anni, quindi anche io in realtà lo so. Però so che l'impasto è molto ben lavorato, non so, in realtà non lo so come, però la carne non si avverte. Assurdo. Si avverte solo il cioccolato. Quindi insomma sì, è molto particolare, Pensate, un biscotto con la carne, esatto, e il cioccolato. È una specie di fagottino. Primo e dessert allo stesso tempo. Esatto. Sì, esatto. Quindi insomma si risparmiava. La salsa del brasato, ci vuoi. Pucci dentro. Un sacco di cose. Sì, no, questa è una cosa che mi lascia basito. Dolce, carne, cioccolato fa. Il nostro ospite ci sta aprendo un altro mondo. Un altro mondo. Esatto. Dovete venire in Sicilia, vi invito ufficialmente perché è molto, soprattutto la parte sudorientale, che non è molto conosciuta, cioè si sta aprendo al turismo adesso. Volentieri, ma voi dovreste aprirvi molto di più al turismo, essendo che siete una terra bellissima. Sì, assolutamente. Che mancano le infrastrutture, purtroppo. Mancano le infrastrutture. Noi stiamo ancora aspettando l'aeroporto di Comiso, non so se ne sapete qualcosa. No. Comiso è una vecchia base NATO, che è sempre in provincia di Ragusa, e c'è stata l'inaugurazione dell'aeroporto di Comiso 5 anni fa, e con Massimo D'Alema, era allora, mi sa... No, 5 anni fa c'era sempre lui. Allora ancora prima, non mi ricordo. 10 anni fa c'era D'Alema. No, no, allora aspetta, allora Massimo D'Alema era ministro di qualcosa. Sempre 10 anni fa. No, no. O un anno fa, un anno e mezzo fa. Comunque, mi ricordo che è atterrato lui con l'aereo appunto all'aeroporto di Comiso, perché in realtà, essendo un'antica base, una vecchia base NATO, la pista c'è. Però manca tutto il resto. E da allora ancora stiamo aspettando l'aeroporto. Però infatti, per dire la velocità. Siete anche una regione statuto autonomo. Siamo infatti a statuto speciale, sì. Quindi dovreste auto mantenervi e finanziare. E invece. Vabbè, adesso investite sul ponte. Infatti. Che così ponte. Messina scompare definitivamente. Esatto, sì. Sotto ponte il peso serve. Dei piloni. Certo che vi serve. Ponte serve, soprattutto quando ancora in alcune parti della Sicilia c'è il binario unico. Certo, ma questo non tutti lo sanno, ma. Tutti lo sanno, quindi a quel punto il ponte diventa fondamentale. La Sicilia. No, ma non ci passeranno i treni. Perché sarà troppo instabile. Sembra che li vogliono togliere. Sembra che vogliono togliere i treni. Sono accorti che la Sicilia è l'unico paese dell'Unione Europea che non ha il binario doppio. Esatto. Scoperta dopo una perizia, hanno dovuto mandare giù tecnici, mica tecnici, scienziati, fisici nucleari. Hanno contato. È uno. Secondo me è uno. Non lo so. Aspetta. Secondo me è uno. Chiamo Roma e vediamo se confermano. A Roma hanno confermato e quindi forse non si farà il binario. Il binario, infatti. Però avete sempre il vostro ponte aperto 100 giorni su 365. Certo, il ponte servirà soprattutto appunto per quello. Poi avete l'autostrada voi, no? 5 o 6 se non sbaglio, no? Che partono da Messina e si dirigono anche verso. Quest'estate finalmente la mia provincia è riuscita ad avere un tratto di autostrada fino alla città di Rosolini, che è in provincia di Siracusa, poi è abbastanza vicino a noi, quindi insomma tutta la provincia di Ragusa finalmente ha. Può godere più o meno di un pezzo di autostrada. La cosa divertente, appunto, sempre parlando delle cose italiane, che dopo l'inaugurazione l'hanno richiusa dopo 5 giorni perché il manto stradale era risultato instabile. E l'hanno riaperta 6 mesi dopo, quindi è stata inaugurazione, è durata 5 giorni e di nuovo richiusa. Incoraggiata. Sì, incoraggiata, però appunto tutto questo per dire che c'è il tornato fatto con la sabbia, esatto. Per dire che il ponte insomma serve sempre di più. Sì. Per dire perché saremo tutto talmente bene che voi siete una regione che funziona meraviglia, voi e i vostri vicini dall'altra parte, perché anche i calabresi sono lì che non hanno l'autostrada, perché Salerno e Reggio Calabria tutto si può definire fuorché un'autostrada. Infatti sarà divertente vedere il prosieguo di quella storia. Esatto, tragicomico, esatto. Oserei dire quasi. Sì, però ovviamente tutto questo, insomma, io sono abbastanza obiettivo, però la Sicilia, insomma, è una delle regioni più belle che ti offre veramente tantissimo, quindi venite in Sicilia, sponsorizziamo questo. Sì, assolutamente, perché ne vale veramente la pena. Basta con certi stereotipi. Sì, insomma, non ci sono più carretti, non c'è più il padre che ti uccide con la lupara la figlia, sì, sicurissimo. Il fratello magari abbiamo, no, neanche abbiamo l'acqua corrente, siete molto gelosi però delle vostre donne. Anche quello è uno stereotipo, scusa. Se lo dici tu sì, certo. Si sapeva che il siciliano era molto attaccato alla ma dipende, insomma, si può incontrare anche un milanese. Hai sorelle? Sì, ecco, faremo la prova. Giulio, e invitiamo in radio. Poi vediamo un momento, perché lo mettiamo dall'altra parte del vetro e vediamo come reagisce. Arriva un proiettile. Vediamo un po'. Lo mettiamo alla prova. Lui dice, noi ci crediamo. Certo. Di conseguenza invitiamo le sorelle di Giulio qua in trasmissione con noi. La sorella. Aspetta, magari è una minorenne, non vorrei fare il nostro presidente così. No. Allora basta, è andata, figurati. Portiamo qua, siamo anche liberi di parlarci tranquillamente, tu sei lì tranquillo. Sarà sottoposta ai selezionatori delle risorse umane di Radio Alma. Ovvio, passerà sotto le forche caudine di mezzanotte, come a tutte le donne che sono passate di qua, giustamente. Francesco si adopera per queste cose, quindi giustamente. Bene, bene, beh, bene. Sì, sì. Sotto sempre la mia supervisione, però. Sì, tu stai lì dall'altra parte del vetro, puoi sempre guardare se ti fa piacere. Ma è intervenire. È il caso. L'hai appena detto tu che sono stereotipi. Beh, ma sì, però insomma. Sei consenziente. No, beh, oh, consenziente è un'intervista, assolutamente sì. Ecco, allora un'intervista non si nega a nessuno. Assolutamente, il diritto di parola. Esatto. Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare? Sì, so contare. Sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te cammina. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con te cammini. Basta, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sultano ci abita qua. 100 passi ci siamo da questa notte, 100 passi. Bentornati su Radio Alma. Abbiamo ascoltato una bellissima canzone dei Modena City Ramblers, che è appunto a tema, perché la canzone si intitolava I 100 passi. Come vi potrete ben ricordare, richiama a un vecchio film, cioè vecchio, non vecchissimo, comunque un film sulla storia di Peppino Impastato, un nipote, no, di Gaetano Badalamenti, uno dei capi mafia più temuti del secondo dopoguerra in Sicilia, che osò sfidare il suo zio e finì male, molto male, malissimo direi, fu assassinato dalla mafia come molti altri. E tra l'altro, appunto, mi veniva in mente, chiacchierando con il nostro ospite a proposito di tale argomento, che la Commissione Europea, per rimanere anche lì in tema, sempre Sicilia, nostro ospite Commissione, quindi ci siamo, Commissione Europea ha da poco pubblicizzato un finanziamento che tramite i fondi regionali fa nei confronti della Regione Sicilia per il riutilizzo delle terre confiscate ai mafiosi ai fini ricreativi o comunque riabilitativi. Ci sono delle terre come le terre di Brusca che proprio sono state utilizzate per uno sfruttamento di tipo viticolo e producono un vino che si chiama appunto proprio i 100 passi. Quindi nel caso passiate da un supermercato che lo vende, o se passate dall'Italia, soprattutto anche in Sicilia, lo trovate, compratelo, perché questi soldi vanno proprio a questo fine, ossia all'impedire che queste terre estrapolate con fatica alle cosche mafiose da parte di gente che ci crede e finanziate con i soldi pubblici non solo dell'Italia ma dell'Unione Europea continuino a produrre e a rimanere libere dal gioco di queste bestie. Tra l'altro, a proposito di mafiosi, domani Gaspare potrebbe darci qualche notizia interessante. Facciamo tutti il tifo per questo siciliano pentito. Infatti un pentito di seconda generazione. Una volta i siciliani pentiti erano dei cani, adesso i siciliani pentiti vengono trattati bene da Cosa Nostra. Da cosa ci piace. Cosa Nostra sta cambiando pelle, ne rendiamo atto e siamo molto contenti di ciò. Oltretutto, prima che me ne dimentichi, volevo fare un annuncio. Non c'entra assolutamente niente con la mafia, no, infatti non facciamo dei misunderstanding, che mettiamo non sarebbe diplomatico. Esatto, mettiamo i puntini sulle i, ma ci sarà, non c'entra con la mafia, ma c'entra con gli zingari. Perché c'entra con gli zingari, Giulio? Perché c'è una fantastica Gypsy Night. La Gypsy Night, giusto, Gypsy Night. Quindi per tutti gli amanti che non votano Lega Nord, che gli piace la musica balcanica, venerdì sera 11 di novembre al Palais des Sciences, come 2 settimane fa, ci sarà una serata organizzata dai nostri cari amici, che noi ci teniamo molto a sponsorizzare, perché la birra è buona, la compagnia è bella, il posto è carino, è pieno di belle ragazze, e poi con tutta la birra che vi bevete comunque sono belle ragazze anche i vostri amici, quindi alla fine della fiera ne vale veramente la pena. Palais des Sciences, 11 di novembre, sbagliato, dicembre. Ex cantina, organizzato dal Palais des Sciences. Sì, giusto, scusa. Ex cantina, dove? Ex cantina di niente. Rubler Gard. Vicino a Bordeale. Bordeale, bravo. Saint-Gilles. Esattamente. Giusto. Torniamo a te, caro Giulio. Stavamo dicendo appunto della cantina 100 Passi che produce questo vino confiscato, che questo vino è prodotto nelle terre confiscate. La cosa da voi è un, sempre per tornare agli stereotipi della vostra isola, è una presenza ingombrante, questo spettro maligno della criminalità organizzata. Si vive, si respira in una cittadina come Modica, per esempio? No, non si respira, perché comunque ormai sono finiti gli anni delle mattanze, che esatto. Comunque si vivevano nelle grandi città come Palermo e Catania. L'interesse quindi della mafia sulle province un po' più, diciamo, distaccate dalle grandi città, quindi è stato sempre basso. Poi a maggior ragione la provincia di Ragusa, siamo l'ultima provincia in Italia, insomma siamo la più bassa, la più vicina all'Africa, per intenderci. Quindi Lampedusa è sotto di voi? Sì, Lampedusa. Cioè, fa provincia di Ragusa? No, sotto di noi dici come... No, sì, geograficamente sì, ma dico, è provincia di Ragusa? No, è provincia di Agrigento. Ah, è provincia di Agrigento. Sì, io intendevo appunto escluse le isole minori, ovviamente, certo, sì. No, perché mi immaginavo comunque anche a livello geografico, pensavo fosse più vicini di voi a livello geografico. Però noi siamo più a sud di Tunisi, se questo può rendere l'idea di quanto siamo terroni, insomma. Cazzo, proprio terroni così. Insomma, un tunisino è più polentone di me. questa è divertente, ma tunisino nordico. Sì, un tunisino è più nordico. Spiegaglielo a Borghezzi. No, comunque appunto non si avverte. Se devo dire perché comunque ormai è la mafia è talmente incastrata nel sistema politico che quindi è una mafia che si avverte soltanto nei livelli alti. Esatto. Cioè, quando si raffinano gli appalti e tutte queste cose qui, insomma, a meno che appunto l'unico fattore tangibile appunto è quello del pizzo. Che ancora è presente, però sempre in più nella provincia di Catania, Palermo, nella provincia di Ragusa non c'è stata mai nessuna denuncia di pizzo, comunque non ma questo secondo te perché non esiste o perché c'è dell'omertà? No, secondo me il fenomeno non posso dire che proprio non esista al 100% perché non ne posso essere sicuro, però non c'è stato mai nessun, 25 anni che vivo, anche perché conoscerai un sacco di gente, non ho mai padre dei tuoi amici che hanno negozio, che hanno attività. Non ho mai sentito appunto fatti appunto di, non so, negozi bruciati o estorsioni di questo genere, quindi abbastanza tranquillo. Infatti ci chiamano a provincia Babba, sempre in dialetto. Babba che vuol dire? Babba vuol dire stupida. In milanese vuol dire stupida. Ecco. Anche in siciliano, visto, abbiamo un denominatore comune. Un babbo di Nicchia. La provincia Babba, proprio perché siamo un po' la più... oasi felice, diciamo. Che siate più babbi per tutti. Se per babbo si intende quello, sono fiero. Perfetto, di essere babbo. Sento babbo pure. Esatto, sentiamo tutti un po' babbi. Anche tu è un gran babbo di Nicchia. La faccia di poi. Ma guardi te come sei arrivato in studio. Io sono sempre un bell'uomo, però sono sempre un gran bell'uomo, Beh, questa è una notizia positiva che ci dai, ci rende felice il fatto che comunque la tua regione stia andando verso una via migliore. Facciamo tutti il tifo qua per una Sicilia più pulita possibile e per un'Italia più pulita possibile. Beh sì, assolutamente. Ovviamente, anche perché a prescindere da ponti e mica ponti siamo connessi, quello che succede da voi succede da noi e si perdita quota anche a Bruxelles in un modo o nell'altro, perché tanto, come dicevo, i fondi strutturali che l'Unione Europea spende, se la gente se li mette in tasca e li ruba, non li ruba a il miliardario, li ruba magari alla provincia rumena che quei soldi li avrebbe presi volentieri, messi in gioco, come la provincia bulgara o polacca o lituana, certo. O, nel senso, sono soldi che vengono dati per sviluppare, quindi che la Sicilia ne faccia un tesoro, e non solo la Sicilia, anche le altre tre regioni coinvolte in questo progetto, che sono Calabria, Campania e Basilicata, se non sbaglio, sì, Basilicata. Sono le quattro regioni che sono coinvolte in questo processo, le più basse dell'Italia. Eh sì. Quindi facciamo il tifo per loro, facciamo il tifo tutti per un'Europa migliore, viva la Lombardia, viva la Ashton. Comunque, siamo arrivati a chiusura, sono le 8.57, con grande tristezza vi devo salutare, anche per noi è arrivato il momento di mangiarci un bel piatto di pasta. Sì. Che voi magari state già mangiando, noi invece abbiamo ancora da prendere la metropolitana, arrivare a casa, a cucinare, tutto qua. Che ciac e ballac. Certo, ciac e ballac. Ciac e ballac. Chi era questo pazzo? Non so. Chi era? Dai. Oh, un qualche siciliano in qualche film. No, ma era stato detto. No, un comico, esatto. Un programma televisivo, tipo l'Isola dei Famosi, se non sbaglio. Ah sì? Oddio, non mi ricordo. Se abbiamo citato una roba di uno dei famosi, mi auguro licenziamo. Siamo impregnati di questa schifo, cosa. Sì, schifo. Vergogna, vergogna per noi. Vergogna per. Shame on you. Shame on you. Bene, Giuli, vi saluti, tu vi saluti, tutti e due. Grazie. Grazie a tutti. Grazie Giulio, è stato un piacere averti in trasmissione. Piacere mio. Giulio II di Inghilterra. La ringrazio per la sua cortese e gentile collaborazione. È stato un piacere. Il fantasma di Francesco, che con noi lo ringraziamo per la sua presenza, probabilmente si stava ubriacando in quel di Belfast. Prendeva acidi per dire che Belfast è bello. Sì, l'ho letto, infatti gli ho detto, ma sei ubriaco alle 10 del mattino, ma sei scemo, come fai a dire che Belfast, Belfast è una figata. È una figata, giusto, testuali parole, uno dei posti più tristi d'Europa, però. Contento lui. Lo salutiamo, gli mandiamo un abbraccio. E a voi, cari ragazzi, vi do appuntamento a giovedì 9 dicembre per la penultima puntata del 2009 di 100 città. Un caro abbraccio e un augurio di una buona serata dal vostro caro Jack. Ciao ciao ciao ciao.